sentiero che porta in cima alla collina, fino al punto più alto, che sembra quasi di stare vicini al cielo. Io quel posto lo conosco davvero, e se ti va di andarci, ti ci porterò. Ha resistito al tempo giorno dopo giorno, col suo terreno di sassi e alberi di ulivo tutto intorno. Tutto intorno regna solo il silenzio e la pace, ed è una sensazione che mi piace. Ed in quel posto che io conosco, se tu vorrai venirci un giorno, ti ci porterò. Se tu vorrai venire a farmi compagnia lungo la via, su quella via così lontana dal rumore e dalla frenesia. Bastano solo buoni occhi per catturare un raggio di sole o una leggera pioggia se fa temporale. Se fa temporale ci ripareremo insieme, e chi lo sa che non ci accorgeremo di volerci bene. Chi lo sa che non ci accorgeremo.